Grazie fratelli miei, potete accomodarvi. Bello essere di nuovo qui. Ieri sono rientrato dalla Svizzera, sono stato da mio fratello Jonathan, ma sono stato anche in una chiesa. È bello poter viaggiare, avere delle esperienze all'esterno e toccare con mano il fatto che il popolo di Dio è enorme e si trova dappertutto ed è glorioso, si trova addirittura nelle valli più strette della Svizzera, del Ticino. Mi sono ritrovato nel Ticino dove ci sono i ticinesi che hanno un accento molto strano, però sono dei siciliani praticamente adottati dalla Svizzera, perché sono tutti trasferiti là dalla Sicilia. E questi ticinesi che si svegliano la mattina con sotto zero, con il freddo gelido della Svizzera, aprono il loro, in questo momento in Ticino si stanno incontrando persone, fratelli e sorelle, stanno adorando lo stesso Dio, e questo sta accadendo in ogni parte del mondo ed è glorioso questo. Il popolo di Dio non è solo quello che vedi attorno a te stamattina, ma è presente in ogni parte del mondo ed è glorioso. Antonio mi diceva che è stato a Francoforte la scorsa settimana e sono andati in piazza al centro di Francoforte e hanno visto tante chiese evangeliche lì riunite, c'era una conferenza. Il popolo di Dio è glorioso, è presente, siamo parte di una famiglia molto più larga di quella che conosciamo ed è una gioia e un privilegio farne parte. Amen, amen. Io ho bisogno stamattina dell'aiuto di Giuseppe Lenoci, non so se lo posso togliere rubare dalla regia, però Giuseppe puoi venire qui sul palco con me, perché questa è una parte che riguarda proprio il tuo coinvolgimento, perché non so quanti, mentre Giuseppe viene, non so quanti di voi hanno memorizzato almeno un verso della Bibbia, un verso della Bibbia. Posso vedere le mani? Che non sia Giovanni 3,16, per piacere. Che non sia Giovanni 3,16, perché sennò qui è chiaro che tutte le mani si alzano. Posso vedere, senza mettere in imbarazzo chi magari terrà la mano abbassata, però c'è qualcuno che ha memorizzato un verso a memoria? Antonio, Sara, in genere, un verso della Bibbia a memoria, Angela, Elijah, ce l'hai, che sei mio nipote, devi farmi fare bella figura, Clarissa, ce l'hai uno? Fatemi vedere bene le vostre mani, bene, bene, vedo anche Luca, ce l'hai un verso a memoria, Luca? Luca, ti puoi alzare in piedi? Abbiamo un ospite in mezzo a noi che non è tanto ospite, è parte della nostra famiglia, è un operaio del Signore, siamo grati per lui. Qual è il tuo verso a memoria, Luca? Che bello metterti in imbarazzo in una chiesa che neanche conosci. Stamattina. 6,65, vai, e cioè? Eh sì, 65 mi sembra un verso molto al di là del capitolo 6. Benissimo, benissimo, facciamo un applauso a Luca. Sei pronto per partire. Giuseppe, tu sei pronto per partire. Che ti mando io se non mi fai fare bella figura adesso. 1 Tessalonicesi 5,17. 1 Tessalonicesi 5,17, cosa dice? Gesù, se stai pensando di venire, questo mi sembra un buon momento per farlo. Signore tornerà, ma non in questo momento. 1 Tessalonicesi 5,17 comincia dicendo: siate sempre allegri e gioiosi. No, solo una delle parole. Gioiosi. Poi? Dai che ti aiutano. Non cessate mai di pregare, ma in ogni cosa. Per ogni cosa. Allora, tu stai facendo il percorso 3. Di quello hai un verso a memoria, me lo stavi citando prima. Sì. Almeno su questo, vediamo se ti salvi. Ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere e educare alla giustizia, poiché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato ad ogni opera buona. Bravissimo, dai, bravissimo, riscattato. Ogni scritto, no, questo rimane qua, il telefono l'ho sequestrato. Segui il mio messaggio, non stare su Facebook. Ogni scrittura va anche imparata a memoria, non solo è utile. Ora, è importante che noi impariamo la Bibbia a memoria, non tutta la Bibbia, ma versi a memoria. Quanti più versi a memoria tu puoi imparare, meglio è. Sapete perché? Perché la Bibbia dice che noi dobbiamo seguire l'esempio di Cristo Gesù in ogni cosa. E sapete che Gesù aveva versi a memoria? Aveva memorizzato versi della Bibbia? In modo particolare gli ebrei memorizzavano l'intera Torah, l'intero Pentateuco, loro lo imparavano a memoria. E Gesù, infatti, quando è stato tentato da Satana, vi ricordate? Per ben 3 volte non ha parlato di suo. Eppure Gesù è Dio, qualsiasi cosa Gesù abbia detto è parola di Dio. Lui aveva autorità di usare le sue proprie parole, ma ci ha lasciato un esempio. E l'esempio che lui ci ha lasciato è l'esempio di memorizzare la Bibbia, perché proprio quando l'avversario viene, nel momento in cui tu conosci versi biblici a memoria, puoi combattere contro il nemico e vincerlo, sconfiggerlo, anche se viene per 3 volte di seguito, come è stato nel caso di Gesù. Amen. Quindi, posso vedere di nuovo le mani di chi ha un verso imparato a memoria, memorizzato a memoria? Che è ancora più bello adesso scendere, puntarvi il microfono contro e sentire il vostro verso a memoria. Angela, tu hai alzato la mano, vero? Tu ce li hai per forza, perché Angela ama scrivere i bigliettini con i versi. Angela è una donna della parola, quindi non ho dubbio che lei sa un verso a memoria bellissimo. Ce lo vuoi dire? So a memoria il Salmo 23. Fantastico. Vai. Però con l'emozione poi mi confondono. Va bene, ti cito quello di Yabez che mi ha aiutato tanto e mi è piaciuto molto, sì. Sempre. Aspetta. Ma è il microfono, ti diamo qualche secondo. Yabez invocò il Dio di Israele dicendo: allarga i miei confini, apri la tua mano. Vabbè, adesso sono presa proprio dall'emozione, però... Il senso del verso? Il senso del verso è, Yabez, conosciamo il suo significato, era figlio del dolore, sì. Perché la mamma l'aveva partorito con dolore, quindi era come se avesse avuto questa impronta sulla sua vita. Sì. Però lui ha aperto il suo cuore a Dio, è come se gli avesse detto toglimi questa impronta, sì. E fa che io possa vedere oltre. E infatti Dio poi dice, e Dio esaudì la sua preghiera. Sì. Meraviglioso, meraviglioso. Ora, non lo sa citare a memoria in questo momento, ma è un verso che sono sicuro che ti sta accompagnato. A caso, ho fatto un quadro perché mi ha molto benedetta. Meraviglioso, meraviglioso. Prendiamo questo esempio, queste sono donne di fede, primi credenti della nostra Chiesa, e il memorizzare e avere padronanza della parola ci aiuta al momento opportuno, quando le sfide vengono, e sappiamo le sfide che Angela ha avuto e che attraversa, la parola di Dio viene in soccorso. In Efesini al capitolo 6 c'è scritto che la parola è una spada dell'armatura, è l'arma, non è solo un qualcosa che ci protegge, addirittura ci dà autorità di attaccare. Quindi un verso che possiamo imparare insieme a memoria oggi, Clarissa, tu lo conosci? 1 Tessalonicesi 5 dal versetto 17, quello che ha appena memorizzato Giuseppe, no, dice: non, ripetete con me, sì. non ripetete con me. Dice: siate sempre gioiosi. Ripetetelo di nuovo: siate sempre gioiosi. Non cessate mai di pregare. Per ogni cosa rendete grazie a Dio. Perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Fantastico. Non? Quelle viene dopo. Siate? Benissimo. Siate sempre gioiosi. Non cessate mai di pregare. Per ogni cosa rendete grazie. È una successione di cose. Perché vorrei che noi facessimo noi? È bello perché non ci siamo messi d'accordo con Gianluca. E Gianluca l'ha già citato questo verso. Quindi sicuramente lo Spirito Santo voleva che noi oggi ci riunissimo e non solo vivessimo il dono perché amo questa offerta, ma facessimo nostro il ringraziamento, facessimo nostra la gioia, facessimo nostro il senso della preghiera. La Bibbia dice che dobbiamo essere sempre gioiosi e noi possiamo essere sempre gioiosi se la nostra gioia non dipende dalle circostanze, non dipende dai nostri stati d'animo altalenanti, ma quando la nostra gioia dipende in Cristo può esserci sempre, anche quando attraversi la valle dell'ombra della morte. Altro verso da imparare a memoria, e grazie a Angela per avercelo ricordato. Salmo 23, ricordatelo, lui è con te anche nella valle dell'ombra della morte, anche quando sei nella malattia, anche quando sei nella sofferenza, tu puoi vivere gioia, perché la Bibbia dice che puoi essere sempre gioioso, e questo dipende dal fatto che la tua gioia non dipende da te stesso, dalle circostanze, ma dipende dal tuo Dio sul quale tu dipendi. Amen. E poi dice: per ogni cosa rendete grazie. La gratitudine ci fa bene. Era bello sentire, io mi sono fermato un attimo con Vito, e Vito diceva: io sono grato perché Dio ha permesso che io fossi riscattato da un destino di vita rovinoso. Ed è meraviglioso, noi siamo qui grati a Dio per questa stessa ragione. Forse è vero, tutti noi, guardandoci in avanti, guardandoci anche e confrontandoci con la parola di Dio, con la Bibbia, abbiamo sempre una ragione per la quale dire: ah, ahimè, non sono ancora dove vorrei essere. C'è ancora della strada da fare, ci sono ancora degli obiettivi da perseguire, ci sono delle cadute che continuo a commettere nella mia vita. Però posso questa mattina portarti alla consapevolezza che sebbene tu non sei ancora dove vorresti essere, grazie a Dio non sei più dove eri. E non sei certamente dove saresti stato se non fosse stato per Cristo Gesù. Amen. Possiamo fare un applauso a Dio per questo. Lui ha riscattato la nostra vita. Noi non siamo dove altrimenti ci ritroveremmo se non fosse stato per Cristo Gesù. Ti sei mai fermato a immaginare che cosa sarebbe la tua vita oggi se non fosse stato per Cristo Gesù? Noi lo possiamo vedere nelle nostre tendenze, nelle nostre inclinazioni, nella nostra carnalità, anche se è chiaro che noi siamo liberi in Cristo Gesù, ci sono delle tendenze, ci sono delle debolezze nella nostra vita. Ora, se non fosse per Cristo Gesù, quelle debolezze che oggi vinciamo per grazia, vinciamo nella preghiera e non ci sopraffanno, quelle stesse debolezze oggi potrebbero essere la nostra rovina. Forse alcuni di noi oggi non sarebbero in vita per le tue debolezze e per la tua carnalità. Forse alcuni di voi oggi avreste commesso dei delitti se non fosse stato per la grazia di Cristo Gesù. Forse oggi la tua famiglia non sarebbe stata unita se non fosse stata per Cristo Gesù. Forse oggi saresti depresso, schiavo di sostanze, se non fosse stato per Cristo Gesù, o semplicemente forse la tua vita sarebbe stata così vuota e senza senso, e certamente non ti saresti ritrovato in un'assemblea come questa stamattina a cantare e lodare il Signore se non fosse stato per Cristo Gesù. Nessuno di noi sarebbe stato qui. Amen. Siamo grati a Dio, siamo grati a Dio. Ora la Bibbia dice: siate sempre gioiosi, vivete il ringraziamento e unite a tutto questo sempre la costante preghiera. Non cessate mai di pregare. La preghiera non deve essere un ritaglio di tempo che abbiamo durante la giornata. La preghiera è la sostanza della nostra vita in Cristo, perché vivere con Cristo significa dipendere da Lui. Vivere con Cristo, essere cristiani, significa non vivere più in autonomia, ma vivere una vita nella quale le tue scelte sono dettate da Cristo Gesù. Io spero che stamattina, anche in questa occasione di dono perché amo, tu non sei venuto mosso da quelle che possono essere state le mie parole o gli insegnamenti avuti o per una tradizione che abbiamo come chiesa, ma perché stai vivendo con Cristo e hai interrogato Cristo, hai chiesto a Gesù: Gesù, che cosa vuoi tu che io faccia oggi? Che cosa vuoi tu che io dia alla chiesa oggi? Perché questo ha vero senso, questo è essere cristiani. Tanti dei problemi che i cristiani hanno si risolverebbero facilmente se solo questi cristiani vivessero veramente la cristianità, che è vivere con Cristo, pregare a Lui, chiedere a Lui, coinvolgere e ascoltare la sua voce. Posso incoraggiarti stamattina? Prega, prega, pensa a fianco, prega, prega, prega, non ti stancare mai di pregare, prega, intercedi, ringrazia e gioisci. Vedete, le tre cose sono collegate. Io credo che l'Apostolo Paolo dice siate sempre gioiosi e poi dà come delle indicazioni, delle istruzioni che possono permetterti di vivere quella gioia. Quindi dice siate sempre gioiosi, vi dico come, perché la gioia è collegata alla preghiera e la gioia è collegata al ringraziamento. Per questo dice l'Apostolo Paolo siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, per ogni cosa rendete grazie a Dio. Ti stai chiedendo come vivere una vita gioiosa? La risposta è semplice. Prega e ringrazia. Prega e ringrazia. Prega e ringrazia. Hai mai ringraziato per la tua chiesa? Io sono grato a Dio per la mia chiesa. Vito annuisce con me. Io sono grato a Dio per la mia chiesa. E sapete, quando siamo grati, noi sconfiggiamo ogni altra tentativo del maligno di sabotare le benedizioni che Dio ha dato nelle nostre vite. Quando tu dici io sono grato a Dio per il bel pastore che ho, io sono grato a Dio per il tempo di lode che mi viene offerto, io sono grato a Dio per quello che realizziamo come chiesa in un'unità, io sono grato a Dio per il gruppo familiare, io sono grato a Dio per i miei fratelli, per le mie sorelle. Quando tu sei grato, quando vivi una vita grata a Dio, tu demolisci ogni tentativo che il diavolo insinua, semina nel tuo cuore per distruggere e sabotare la tua vita, facendoti credere che la chiesa è brutta, il pastore è pesante, è scocciante, è pure brizzolato, è a volte grida troppo al microfono, non lo so, cioè tutte le ragioni per le quali tu puoi vivere male la Chiesa sono racchiuse nella mancanza di gratitudine. Vuoi vivere bene la Chiesa? Non dipende dal cambiamento della Chiesa, dipende dal cambiamento del tuo cuore. Se sei grato per la tua Chiesa, vivrai bene la Chiesa, anche se la Chiesa sarà più imperfetta di quando lo era prima. Dipende dal tuo stato d'animo, dipende dal tuo cuore. Io sono grato a Dio per la mia Chiesa. Tu lo sei con me? Amen, alleluia. Possiamo fare un applauso a Dio per questo? Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, per ogni cosa rendete grazie a Dio, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Alleluia. Impara questo verso a memoria. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa è quel gruppo di persone riscattate in Cristo Gesù da un destino di vita terribile, che Dio unisce in un vincolo, in un'unità soprannaturale. Noi non siamo uniti perché abbiamo gli stessi gusti, perché abbiamo tutti la stessa età, perché abbiamo tutti la gioia dello stesso genere musicale, abbiamo qualcosa in comune che sia di non lo so cosa. Non è un gruppo sociale questo, non abbiamo delle passioni di intrattenimento in comune. Noi abbiamo una cosa in comune che vale tutte, Cristo Gesù. E la Chiesa è quel gruppo di persone riscattate dal destino di vita che il diavolo aveva in mente per loro, salvate in Cristo Gesù e riunite per vivere insieme, in unità, un nuovo destino di vita. Tu non hai solo un destino di vita individuale, personale. Tu hai un destino di vita che si sprigiona e si compie, si manifesta appieno insieme alla Chiesa tutta. Per questo noi facciamo dono perché amo, perché è il tuo modo per vincere l'avarizia, legarti a un vincolo di generosità e partecipare all'avanzamento del regno di Dio. Ma il dono perché amo è un modo ulteriore per unirci come Chiesa e per dire insieme noi vogliamo andare avanti, insieme noi vogliamo conquistare, insieme noi vogliamo battere dei territori nuovi, vogliamo calpestare dei territori inesplorati, noi vogliamo fare il miglio in più come chiesa. Noi vogliamo essere una chiesa che è influente. Noi non vogliamo risparmiarci come chiesa, ma vogliamo dare il meglio di noi stessi affinché l'Evangelo di Cristo Gesù avanzi. Siete d'accordo con me? E questo è il motivo per il quale in questo mese facciamo la nostra undicesima raccolta miracolosa, l'undicesima raccolta dono perché amo. E io voglio mostrarvi quello che abbiamo fatto della raccolta precedente, così ci rendiamo anche conto di che cosa poi ci permette di vivere dono perché amo. Nel 2019 abbiamo raccolto, sempre a febbraio, una buona cifra, all'incirca 20.000 euro insieme come chiesa, se non ricordo male. E di questa cifra l'abbiamo destinata quasi tutto, abbiamo risparmiato, quindi c'è ancora un avanzo e sicuramente lo destineremo. Però vi voglio far vedere, abbiamo destinato il 23% a doni esterni. Il 23% di questa cifra noi l'abbiamo destinata a doni esterni. E questo è qualcosa che ci sta a cuore come Chiesa. E ha a che fare con qualcosa che sempre abbiamo fatto. Non so se vi ricordate, ma noi come Chiesa, anche 20 anni fa, 30 anni fa, cosa facevamo? Prendevamo la decima di tutte le offerte. La decima di tutte le offerte raccolte durante l'anno, di tutte le decime raccolte durante l'anno. Facevamo una decima della decima. Ci decimavamo come chiesa, non in numero, ma in termini di budget. Prendevamo di tutto quello che avevamo raccolto durante l'anno per destinarlo ad opere esterne a noi. Io vado fiero di questo principio, perché noi come Chiesa non raccogliamo solo per i nostri interessi, ma raccogliamo per gli interessi del Regno di Dio, dovunque il Signore ci spinge a contribuire. E quindi, con dono perché amo, l'anno scorso abbiamo destinato un dono importante a Porte Aperte, la missione che conosciamo a favore della Chiesa perseguitata, Progetto Michea, che è un'opera a favore dei bambini e adolescenti africani per dare a loro un futuro, ed è portato avanti da Nico Pugliese. E poi anche stiamo mettendo per ogni dono perché amo da parte dei soldi quali fondo cassa per gli operai che sono all'estero, perché abbiamo questi operai, abbiamo 3 operai adesso all'estero che stanno servendo il Signore, e vogliamo assicurarci che loro abbiano, anche se dovesse venire a mancare il sostentamento mensile, o se dovessero avere delle urgenze o delle emergenze, vogliamo avere un fondo cassa a disposizione per loro. E in più di questa parte, doni esterni, abbiamo dato anche un dono a ISE8, che è un'opera nazionale. È vero che è interna nostra, ma è a favore dell'avanzamento del Regno di Dio nei popoli non raggiunti, mobilitando gli italiani ad andare in missione. Ci piace questo? Ci piace questo 23%? Possiamo fare un applauso a Dio per questo? Voglio ricordarti, c'è potenza nella preghiera, c'è potenza in quello che stiamo per fare adesso. Non è una cantilena di religiosa, questo è chiedere l'intervento di Dio, di un Dio vivo che è potente da cambiare, fare breccia nei popoli musulmani, nei popoli non raggiunti, e salvare ancora oggi. Attraverso chi? Attraverso nostri vicini, vicinissimi fratelli e sorelle. Quindi vogliamo spendere un tempo alzando tutti insieme la nostra voce in preghiera e pregando per Emanuele. Sappiamo la situazione in Cina, lui non è nella regione più intaccata da questo virus, ma comunque è una situazione delicata, quindi vogliamo pregare per protezione per lui e che Dio intervenga e si serva di lui per portare ristoro e consolazione. Preghiamo per Giulia, per quello che lei sta facendo, che Dio possa dare strade nuove e possa permettere a lei di arrivare a cuori nuovi. E poi preghiamo per Marta anche, che Dio si serva di lei grandemente. Vogliamo farlo insieme, alziamo la nostra voce, prega con fede, perché Dio interverrà in accordo con la nostra fede. Amen, amen. Alleluia, grazie Padre, grazie perché ascolti le nostre preghiere. In questo tempo noi preghiamo per la Cina, che questa situazione possa portare migliaia di persone, milioni di persone a conversione, a riconoscere il bisogno che hanno di te è la sicurezza che c'è nel tuo nome, Signore Gesù. Preghiamo, Padre, per i popoli musulmani, dove Giulia e Marta si trovano. Noi preghiamo affinché tu possa salvare ancora uno, Signore Gesù, lì. Uno che possa portare salvezza ad altri e ad altri ancora. Padre, io prego che si possa sbloccare la potenza del tuo regno nella vita di Giulia, di Marta, con potenza, e che l'Evangelo possa essere annunciato con franchezza. Preghiamo per salvezza nel nome di Gesù in queste nazioni. Alleluia. Amen. Amen, amen. Dio ascolta le nostre preghiere, amen, amen. Ci vogliamo accomodare, io voglio farvi vedere ancora il grafico e la destinazione che abbiamo dato alla raccolta dell'anno scorso. E c'è una parte importante che ha a che fare con la crescita di Chiesa, e qui, in questo budget, voi trovate i soldi investiti che hanno permesso a noi di avere una campagna evangelistica che è durata una settimana, non so se vi ricordate, in piazza con i Jesus Revolution, ma poi anche dei gruppi dei Jesus Revolution sono venuti settimane prima e settimane dopo. E avere l'opportunità di accoglierli e avere l'opportunità di vedere gli upside down coinvolti nell'evangelizzazione in piazza ogni giorno, a Bari davanti all'Ateneo, qui a Modugno nonostante la pioggia, è stato tutto un qualcosa di miracoloso e di grossa benedizione. Sono venuti a salvezza delle persone. Oggi, se non sbaglio, abbiamo in mezzo a noi in chiesa due persone salvate in virtù di tutto quello che è successo in quei mesi. E sapete una cosa, anche per una persona, io credo che il 57% ne è valsa la pena. Amen. Siete d'accordo con me? Quindi questi soldi vengono investiti per cose che hanno a che fare con cose pratiche, però cose pratiche che, se non ci fossero, non ci permetterebbero di ospitare questi eventi. In questo budget troviamo anche i soldi che possiamo spendere e investire per gli eventi di chiesa, quale Natale o Agosto da Dio, gli ospiti che chiamiamo a predicare in mezzo a noi. Sono tutte spese in più che non riusciremmo a sostenere con i budget di chiesa normali, delle decime e le offerte, ma perché c'è questa raccolta abbiamo l'opportunità di darci uno slancio in più e avere degli eventi che hanno un impatto evangelistico notevole. Quindi io sono molto grato a Dio per questo 57%, e anche quest'anno spero che possiamo investire tanti soldi per l'evangelizzazione, per gli eventi, per avere delle opportunità che hanno un impatto sulla nostra chiesa. Qui c'è anche qualcosa che ha a che fare con la comunicazione. La comunicazione richiede tanti investimenti, però è qualcosa che noi ci permettiamo di poter vivere con eccellenza come Chiesa, proprio anche perché ci sono queste finanze. E poi le strutture. Vedete che il 20% è stato investito per sistemare almeno il minimo indispensabile via Santa Lucia, che aveva una perdita e quella perdita stava creando anche situazioni di disagio e l'impossibilità di utilizzare la sala. Abbiamo investito, abbiamo sistemato quella struttura alla meno peggio, però almeno adesso non abbiamo perdite d'acqua. Vogliamo continuare a investire sulle strutture. Perché? Perché le strutture ci permettono di ospitare tutte le cose che svolgiamo, e non dobbiamo dare per scontato il fatto che tu sei comodo oggi seduto su una sedia acquistata attraverso un dono perché amo, in un ambiente che abbiamo potuto vivere quale traslogo in virtù di dono perché amo. E sono cose pratiche, però noi ci rendiamo conto che questo offrono l'opportunità a noi di vivere bene le attività e di coinvolgere altri e avere la possibilità di invitare altre persone. Non beneficiare solamente di tutto questo, non beneficiare perché derubi. No, se benefici solamente stai derubando la generosità di altri. Sii tu un valido contributo in tutto questo. Quest'anno noi vogliamo destinare dono perché amo a tutte queste cose. Vogliamo dedicare un dono perché amo che sia incentrato sui doni esterni. Vogliamo dedicare un dono perché amo che sia investito per la crescita di chiesa, ma vogliamo donare un dono perché amo in modo particolare per le strutture di chiese e in modo particolare per l'opportunità di costruire una nuova sala polifunzionale per le generazioni a venire. Amen. Ci piace questo? Vogliamo vedere questo video, sentirete di nuovo la mia voce, però vi spiego meglio tutto l'iter che ha a che fare con le strutture di chiesa. Quest'anno, il 2020, è un anno storico per la nostra Chiesa. Compiamo infatti 50 anni. Tutto ha avuto inizio con un gruppo di missionari olandesi che si è trasferito qui in Sud Italia e ha cominciato ad evangelizzare tanti paesi e tante città, tra cui Modugno. I primi credenti di Modugno, i primi credenti della nostra Chiesa, hanno da subito cercato un luogo dove incontrarsi e dopo pochi anni hanno acquistato una stalla nel centro storico di Modugno, in via Santa Lucia. In questo locale la Chiesa è cresciuta e le attività si sono moltiplicate, fino al punto da essere un luogo troppo limitato e limitante per questa crescita. Ed è così che è nato un desiderio, un sogno, il sogno di realizzare una struttura tutta nostra, costruirla noi, che fosse adeguata alla visione che da sempre abbiamo avuto, una Chiesa grande, per la gloria di Dio, una Chiesa in continua crescita, una Chiesa influente, una Chiesa che offrisse attività rivolte alle nuove generazioni, alle famiglie, ai bisognosi. Questo sogno, questo desiderio si è in parte concretizzato con l'acquisto di un terreno di 11.000 metri quadri nell'immediata periferia di Modugno. Dopo aver acquistato questo terreno, si è lavorato a lungo a un progetto. Questo progetto è stato da subito ambizioso e lungimirante. Purtroppo il permesso a costruire non ci è stato concesso in quanto c'era un problema di viabilità. Però non ci siamo abbattuti, abbiamo continuato a lavorare nella direzione della realizzazione di questo progetto e nel frattempo abbiamo preso in affitto un locale di 200 metri quadri, un interrato. Questo ha permesso alla Chiesa di dividere le attività tra i locali storici in via Santa Lucia e i nuovi spazi in via Filzi. È in questo tempo storico che gli Upside Down, i giovani della nostra Chiesa, hanno vissuto un tempo di crescita e di sviluppo straordinario, appropriandosi dei locali in via Santa Lucia, personalizzandoli e sfruttandoli al massimo. Da lì a pochi anni abbiamo avuto l'incredibile opportunità di trasferirci in un locale che finalmente potesse ospitare l'intera chiesa e tutte le nostre attività. Parlo del luogo in cui mi trovo ora. In via Albero Tanza abbiamo questo ex cinema teatro nel cuore della città di Modugno. Ed è stata un'opportunità straordinaria per continuare a crescere ed è un'opportunità straordinaria che Dio ci concede per continuare a crescere. Questo trasferimento, per quanto entusiasmante e speciale fosse, non è stato un passo semplice. Ha richiesto un notevole sforzo economico. Mi riferisco alla ristrutturazione dei locali, all'acquisto delle sedie alle mie spalle, alla strumentazione, mi riferisco all'adeguamento degli impianti, ma anche alle bollette, ora più salate, e all'affitto 15 volte superiore rispetto al locale precedente. È stato in virtù di tutto questo che è nata la prima raccolta Dono perché amo. La Chiesa ha dato generosamente, la fede si è fatta azione e attraverso il contributo di molti abbiamo potuto affrontare le tante spese. Quest'anno noi avremo la nostra 13ª raccolta Dono perché amo e vorremmo destinare gran parte di quello che andremo a raccogliere al progetto del nuovo complesso polifunzionale che abbiamo in mente di edificare nel terreno da noi acquistato. Oltre che sostenere le opere che storicamente oramai sosteniamo attraverso Dono perché amo, quale Porte Aperte, Progetto Michea, oltre che sostenere gli operai che sono all'estero e gli eventi di chiesa evangelistici, vogliamo dedicare buona parte di questa raccolta a questo progetto. Ci sono infatti buoni presupposti per ottenere il permesso a costruire. Abbiamo già presentato un progetto revisionato. Questo progetto prevede la costruzione di due strutture principali. La prima struttura ha al suo interno una sala di 380 metri quadri, alla quale si potrà accedere attraverso un ampio atrio d'ingresso. In questo edificio è prevista anche un'intera area dedicata ai bambini, con ambienti a norma che potranno essere utilizzati per attivare un asilo o una ludoteca per più di 40 bambini. Oltre all'appartamento per un custode, il progetto prevede altre salette ed uffici per vari utilizzi. La seconda struttura invece è un auditorium da 1.000 posti a sedere. con un ampio palco, backstage, servizi igienici e camerini. L'intero progetto, inserito in un terreno di 11.000 metri quadri, offrirà ampi spazi di verde e parcheggi. Ti incoraggio ad essere parte di tutto questo, ad abbracciare e sposare questa visione al 100%, ad essere non solo beneficiario di una storia meravigliosa che ci sta alle spalle, ma promotore di un futuro meraviglioso che potrà permettere a molte altre persone di essere raggiunte e accolte. Dona anche tu perché ami. Padre, noi preghiamo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Noi preghiamo per gli anni a venire, non sappiamo quanti ce ne saranno, non sappiamo che storia esattamente vivrà la nostra Chiesa, ma noi vogliamo prepararci e vogliamo allinearci al tuo Spirito Santo affinché la nostra Chiesa possa raggiungere nuove generazioni. Noi bambini, Signore, famiglie, come pregavo prima, Padre, io ti prego affinché i cuori dei più piccoli possano essere riscattati e facce e persone che ancora non abbiamo ancora in mezzo a noi possano essere accolte in questa Chiesa, nella tua Chiesa, e mandate per l'avanzamento del tuo regno. Io benedico ogni centesimo che raccoglieremo oggi, ogni centesimo che raccoglieremo stamattina, ogni centesimo di stasera, in questo mese. Io prego, Padre, che tu possa moltiplicarlo per l'avanzamento del tuo regno. E dove noi non possiamo arrivare, Padre, perché non possiamo arrivare a tutto quello che vorremmo realizzare, noi preghiamo il tuo intervento miracoloso. Sei tu che provvedi, e io prego, Padre, di provvedere alla nostra Chiesa affinché tutto quello che tu hai in mente per noi si possa realizzare come è stato finora. Nel nome di Gesù prego questo e benedico ogni donatore, benedico le nostre finanze familiari. Io prego, Padre, per chi ha bisogni, che tu possa provvedere, provvedi lavoro, provvedi occupazione, provvedi benedizioni. Io ti prego che debiti siano estinti, io prego, Padre, che le finanze possano essere gestite con sapienza e che il tuo popolo possa prosperare per la gloria tua e per l'avanzamento del tuo regno, Signore Gesù. Lo prego nel tuo santo nome.